fossi io, viene lento di vagare, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina, per la vigilia di Natale, ho pensato di riproporvi una puntata di Melog particolarmente adatta per i momenti di passaggio e per i momenti di attesa. È quella dedicata al volo umano. Ognuno di noi sa che gli uomini possono volare e quel giorno abbiamo dimostrato questa nostra folle tesi. Questa è la peggior mattinata possibile per volare, me ne rendo conto. Milano è sotto la neve, a Roma ancora sembra notte e si galleggia nell'acqua. Ma nonostante questo, come già ho annunciato alla fetta di pubblico che mi segue attraverso la rete, questa mattina parleremo del volo umano. Io sono perfettamente convinto, anzi lo sapete anche voi, che ognuno di noi ha volato almeno una volta nella vita. Tante volte succede, accade, uno dice ho sognato di volare, ma non è che si sogna di volare, si vola veramente. Io ho un ricordo lucidissimo e comincio questa mattina a dare il buon esempio e prego chiunque abbia il coraggio, come l'ha scritto lungamente stanotte, ieri notte, l'altra mattina. Ho centinaia di persone che mi hanno descritto nei minimi particolari come loro facciano a volare. Ognuno ha la sua tecnica, chi respira, chi guarda i colori e chi si concentra, chi sa che esattamente a quell'ora accadrà, chi sa come volare, come uscire, come affacciarsi al balcone e andare dall'altra parte, come svolazzare sui balconi degli altri, come occhieggiare nelle finestre degli altri, come vedere dall'alto tutto ciò che circonda la propria abitazione. Voi direte una follia, una pazzia, ma cosa mi vai dicendo? Prendiamoci cura di quelle che sono gli affanni quotidiani, con i problemi, la crisi, con quello che sta succedendo e sta accadendo nel mondo, parlare di questa stupidaggine, che si vola, sì, si vola. Io penso che se gli esseri umani confessassero l'un l'altro che almeno una volta nella vita tutti abbiamo volato, probabilmente troveremmo dei punti comuni d'incontro molto più facilmente. La mia non è una lettura buonista. Beh, dicevo, do il buon esempio, 800240024, tutti quelli che hanno volato almeno una volta nella vita, senza ali, senza aereo, senza elicottero, senza paracadute, senza parapendio, senza calcio nel culo, quelli che hanno volato almeno una volta lo dicano questa mattina, è semplicissimo. Vi racconto come ho fatto io una mattina, ricordo ancora, erano gli anni 70, erano con le vacanze massacro, con 50.000 lire si girava tutto, avevamo fatto l'autostop, avevamo trovato sotto la Tour Eiffel un pullman di bambini di Gesù Cristo, qualcosa del genere. Beh, ci siamo finti di loro e ci hanno dato un passaggio fino a Bruxelles. Era bellissimo, non ci sembrava vero. La notte ci fermammo nel Bois de Boulogne, mettemmo i sacchi a pelle e dormimmo. Io guardavo il cielo stellato e per la prima volta mi sono accorto che potevo volare. Poi ho riprovato a farlo alcune volte a casa mia, era abbastanza semplice, bastava accordare la respirazione con la dormiveglia e si usciva dalla finestra, si svolazzava, vedevo tutti i tetti intorno a casa mia. Vedevo i balconi, vedevo le persone addormentate, era bellissimo. Per alcuni periodi annotai tutte le mie impressioni di volo e ancora ho quei fogliettini, ma erano gli anni 70, anni molto lontani. Poi sono invecchiato e non ho volato più. Un'ultima domanda, posso chiederti, Billy, che genere di sensazioni hai quando danzi? Non lo so, una bella sensazione, sto lì tutto rigido, ma dopo che ho iniziato, allora dimentico qualunque cosa e è come se sparissi. Come se sparissi. Cioè sento che tutto il corpo cambia ed è come se dentro avessi un fuoco. Come se volassi. Da terra non mi è facile prendere il volo, quindi o vado sul balcone di casa, o se sono lontana, cerco le finestre aperte sulle scale dei condomini. Da livello zero non mi alzo quasi mai. Ora sono pronta. È arrivata un'altra decisiva folata di vento a favore. È grecale e va bene per volare. Entro in casa un attimo, mi metto la giacca a vento, lo zaino sulle spalle e riesco. Salgo di nuovo sul davanzale, stavolta in piedi e salto. Una prima concreta, realistica esperienza di volo umano, senza ali, senza interferenze, è quella di Adriana Di Lello, che ha scritto appunto Volo basso senza interferenza, che è un libro uscito per la Cristian Marinotti Edizioni, che racconta appunto l'esperienza di una ragazza che è capace di volare. È una cosa meravigliosa, semplicissima e soprattutto un grande coraggio nel raccontarlo, ma già vedo che le prime persone stanno cominciando a darmi i loro messaggi di volo. E mi scrive: grazie, con le mani amore, per le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. Non avere paura se non sarà bella come dici, ma voleremo in cielo in carne ed ossa e non torneremo più. Questa è la Donna Cannone di De Gregori, ma altre persone stanno raccontando, sempre attingendo a vene lontane, a ispirazioni poetiche che non appartengono, ma ho sotto mano testimonianze di almeno 30-40 persone che hanno già descritto con particolari la loro esperienza di volo umano. 800240024. Sono un uccello. Sono elettricità. Sì. Sono elettricità. Mi basta un attimo per superare i due palazzi più alti della via. Pochi metri e sono su Corso Genova. Vedo l'ottico, la cartoleria, la coloniale. Un po' più in là due banche che fanno angolo con Piazza Cantore. La prima volta che è capitato avevo 11 anni e l'ho scoperto in modo del tutto casuale. Ero con i miei sul lago di Como. Avevamo deciso di prendere il traghetto che da Bellagio va a Cadenapia. Io mi ero allontanata, come facevo spesso, e mi ero seduta sul corrimano a prua, con le gambe a penzoloni. A un certo punto il battello ha curvato. Non era nemmeno una curva pericolosa, ma io ho perso l'equilibrio e sono caduta giù. Istintivamente ho allargato le braccia e a poche decine di centimetri dall'acqua il mio corpo si è proiettato in avanti. Ripeto, questa è la testimonianza dell'esperienza di volo, anzi dell'istruzione di volo di Adriana Di Lello, che ha scritto un libro su questo. Adriana Di Lello in studio sta ascoltando silenziosa, sta prendendo appunti. Tra poco dalla sua voce sentirete anche come avviene che lei possa volare, possa aver raccontato in un libro la storia del suo volo. Mi scrive Banfo su Facebook: a me è capitato spesso quell'idea di poter nuotare dell'aria, muoversi in tre dimensioni e vedere tutto dall'alto. Spessissimo mi è sembrato di poter salire sempre più in alto, quasi sempre mi sono trovato a chiedermi come cavolo sarei atterrato. E poi si dividono i sogni: ogni tanto ho sognato di riuscire a atterrare e tornare coi piedi, visualizzo sempre alto per terra, proprio la sensazione di ritrovarmi la terra sotto i piedi. Altre volte invece il sogno è infinito, con un bruschissimo risveglio nel cuore della notte, un attimo prima di sfracellarmi per terra. Ecco, volare sì, ma dove atterrare? Carlo, buongiorno. Buongiorno. Quindi anche lei vola? Sì, mi è capitato diverse volte, più che altro a un fluttuare, diciamo, radente. Ma oltre a questo, a che quota più o meno da terra? Dai 15 metri a proprio un metro e mezzo, carezzando magari l'erba. Ecco, qual è la tecnica per iniziare a volare? A che ora, in che momento e attraverso... No, durante il sogno, nelle ore quelle, insomma, diciamo dalle 3 alle 5 di mattina, che è poi l'ora quella tipica dei sogni lucidi. Io faccio sogni lucidi da diversi anni. Sono sempre gli stessi posti che lei sorvola? A volte sì, ricorrono situazioni. Comunque io faccio sogni lucidi e anche che si sono rivelati premonitori. Il problema è che sì, non abbiamo più gli strumenti per decifrare un sogno quando si è premonitore, nel momento in cui lo facciamo. Per cui un'ultima cosa, Carlo, da che età ha cominciato a volare lei? Ma penso anche molti episodi da bambino. Io ricordo molto episodi dell'infanzia, anche a livello onirico. Ecco, ma lei può determinare se questa notte volo oppure accade senza che lei possa controllarlo? Diciamo che l'intento ha una sua importanza nei sogni lucidi. Il sogno lucido comunque sia è come un rendersi conto di star sognando, per cui pilotare anche il sogno. E quindi riesce a pilotare anche il volo, sa come girare, come voltare, alzarsi di quota, sì, abbassarsi. Sì. Ma la cosa strana è che non è mai a livello di incubo, perché potendolo pilotare il sogno, nei sogni lucidi, premesso che io ho letto che sono informato sull'argomento, una piccola percentuale, 1 su 10 fa sogni lucidi, che erano poi i sogni cosiddetti dei mistici e degli sciamani. Diciamo, Vabbè, adesso senza dover per forza filiazioni storiche, antropologiche o realistiche, l'importante è sapere che anche Carlo Vola, come Vola Adriana Di Lello, di cui sentiamo l'ultima parte delle istruzioni basilari di volo. A quel punto ero in posizione orizzontale e fluttuavo. Da quel giorno ho deciso di mantenere il segreto. Non c'è nulla nel mio modo di volare che mi ricordi un aereo, un aviante, un deltaplano, un parapendio, neanche un uccello. Non ho bisogno di scaldare i motori, non ho bisogno di ali, reattori, tute aerodinamiche, maniche a pipistrello, non ho bisogno nemmeno di avere un corpo eccessivamente affusolato. Quando mi appollaio sul davanzale, il mio cervello è sgombro, immacolato come un foglio bianco senza quadretti, candido come un lenzuolo centrifugato dalla candeggina. Altrimenti non si spiega come io possa buttarmi dal balcone a corpo morto e senza fare alcun movimento, restare a galla nel vuoto, ondeggiando come una piuma, potendo resistere così anche per diverse ore. Mi scrive Simon: Chagall ha dipinto perfettamente quella sensazione che tutti abbiamo sognato e per pudore mai confessato. Ecco, chissà perché il pudore ci impedisce di raccontare una cosa semplice, banale, in fondo inoffensiva come quella di volare, mentre ci sono dei sogni assolutamente innominabili che tranquillamente fanno parte del nostro racconto quotidiano. Mi scrive anche Rosarita, dice: volo spesso di notte a qualche metro da terra, fin da bambina. La cosa straordinaria è che posso farlo solo io. Gli altri nel sonno rimangono a piedi, coi piedi a terra e lo sguardo in basso. Mi accade di frequente, in alcuni periodi quasi tutte le notti, da qualche mese non più, ma accadrà, ne sono certa. Magari stanotte ci provo. Adriana Di Lello, buongiorno. Buongiorno. Ecco, ti ho fatto ascoltare alcune parti del tuo libro, abbiamo confrontato la tua esperienza con quella di tante persone, ci stanno scrivendo, già vedo telefonate pronte. Cominciamo a ragionare. Tu mi hai detto che per scrivere un libro sul fatto che si voli bisogna essere molto razionali. Io pensavo che occorresse essere molto folli. Forse sì, però ritengo che un fondo di razionalità possa servire, perché sennò risulta tutto improponibile e irreale. Mentre quello che volevo dire io, quello che volevo segnalare con questo libro, era una reale voglia di distaccarsi dalla realtà. Che non sempre condivisa. Gli altri ti vedono volare e in fondo considerano questo sì come una tua eccentricità, ma non danno grande importanza al fatto che tu voli tra le persone. No, non danno importanza, perché nel libro questo forse può essere scritto nel livello di fantasia all'interno del quale si muove, però questo sempre all'interno del libro probabilmente è una mia voglia di dare una chiave ottimistica. La gente vede questa persona che vola e non si stupisce più di tanto, perché probabilmente intuisce che ci sono persone in grado di distaccarsi dalla realtà senza troppi problemi, senza troppi patemi d'animo. E queste persone rassicurano il resto del mondo che rimanere immerse nella realtà in fondo sia confortante. Rimanere immersi in realtà è confortante, però è anche liberatorio volare ogni tanto quando c'è la possibilità di farlo. Ecco, per volare devi sempre affacciarti a un davanzale e fare un salto dall'alto, non riesci a decollare direttamente dal livello del terreno, almeno in questo libro. No, vabbè, poi verso la fine del libro si capirà che io sono probabilmente una delle prime figure in grado di fare questa cosa sul pianeta Terra. Poi esisterà una seconda figura che invece è in grado di farlo da Terra, no? Probabilmente decollare da Terra è faticoso, ci vuole un minimo di distacco, bastano pochi metri. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Dunque, anche lei è un volatore? Sì. Ho imparato a volare, diciamo, da circa una decina d'anni, sbattendo proprio le mani, come simulando il volo di un uccello, e la prima volta mi sono staccato pochissimo da terra. Quando avviene questo? Di notte, nei sogni, non riconosco da che ora più o meno possa succedere, però una volta che ho imparato, volo quando voglio io, mi sollevo da terra leggermente, poi sbatto di più le mani, fino ad arrivare ad aprire le braccia. E una decina d'anni fa è successo che ho preso con me mia figlia che dormiva e l'ho portata in giro. Lei si è svegliata e mi ha detto: papà, cosa fai? Allora io gli ho detto: zitta, vieni con me. L'ho portata sulle mie spalle, ho aperto la finestra e ho cominciato ad andare in giro per Milano, dappertutto, in alto, in basso, volando proprio come un aereo, prendo le braccia e volando. È stata un'esperienza veramente fantastica ed ogni volta che io decido di volare, volo, me lo impongo, mi fermo in piedi, sbatto le mani, appena appena comincio a sollevarmi, poi le sbatto ancora più forte fino a che proprio decollo come se fosse un aereo. Grazie Roberto. Passiamo a un altro volatore, Giovanni. Questa mattina non sento donne che confessano il volo. Per la donna forse è più difficile ammettere quest'altra facoltà di astrazione rispetto alla nostra rude tendenza all'immanenza coatta, e quindi spero che all'800-24 chiami anche qualche signora e mi racconti finalmente liberata la sua possibilità di volare. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei come fa a volare? Ma io ho volato per tutta la vita, è un po' di tempo che non volo, e nel volare facevo come ha fatto il suo collega, che ha parlato prima di me, sì. E bastava allargare le braccia, fare un saltellino per poter sollevarmi da terra e poi cominciavo a volare proprio veramente nelle nuvole, oltre le nuvole. Il problema grosso che ho sempre avuto era quello di stare attento ai fili della luce. Ecco, questo, aspetti un attimo, Adriana Di Lello, anche nel tuo libro c'è questo problema dei fili dell'alta tensione. Sì, i fili dell'alta tensione, in verità lei vola a diciamo 5-10 metri da terra. Perché dici sempre lei, che la protagonista non ha nemmeno un nome, non sei tu? No, non sono io, però è una donna, so che è una donna, è una donna forse un po' assessuata, però è una donna. Per volare, sai, non è che poi sia indispensabile, anzi, meno orpelli si hanno e più si vola tranquillo. Sì, diciamo che è una bambina cresciuta. Beh, comunque anche tu avevi questo problema dei fili. Avevo questo problema dei fili, ma lo risolvo molto razionalmente spostandomi lì dove non ci sono, oppure volando a 2 o 3 metri dai fili dell'alta tensione. C'è ancora Giovanni? Sì, sì. Giovanni, sì. Ecco, invece con la bicicletta come si vola? Anche a me è la stessa cosa, di evitare i fili. Ma mi parli della bicicletta. Della bicicletta invece basta che io pedali e cominci a pedalare forte e poi mi sollevo insieme alla bicicletta. Come E.T., come nel film E.T. accade. E uso il manubrio come se fosse la cloche e volo così. E il campanello per segnalare la sua presenza? No, questo no, non è mai stato usato. E come atterra con la bicicletta? Ma nell'atterrare io sì, plano come plana l'aeroplano, cioè si scende lentamente, poi... Ecco, ma voi volatori notturni, vi capita mai di incontrare altre persone? Ci sono altre persone che di notte fanno la stessa attività? Cioè esistono dei tracciati aerei, ecco, delle piste aeree? Non ho mai incontrato nessuno. E poi siete tanti, perché mi stanno arrivando tantissime telefonate. Ho provato anch'io a volare con mia figlia. E invece? Con la figlia ho volato ed ero in quel momento lì, non vedevo, cioè volavo ma non avevo la vista del panorama. Era un volo strumentale, quindi? Sì, un volo strumentale forse. Va bene, la ringrazio, la saluto. Mi sembra che siamo arrivati alla conclusione della prima parte di questa fantastica maniera che abbiamo avuto questa mattina di toglierci finalmente questo peso dal cuore e raccontare tranquillamente, visto che non è una colpa, visto che non ci rende emarginate la società, visto che nessuno dirà che siamo pazzi perché è un sogno condiviso da tanti altri, il fatto che tutti noi possiamo volare, abbiamo volato e sappiamo esattamente qual è il segreto del buon volo notturno. Io sin da piccola ho avuto la sensazione, ma quel periodo pensavo stessi sognando, di volare intorno alla casa, volare in giro, dappertutto. io pensavo fosse nel sogno. Poi quando sono diventata un po' più grande, ma intorno ai 20 anni, mi rendevo conto che queste cose succedevano sempre più spesso, e sempre più spesso quando mi svegliavo. Stiamo parlando del volo umano, stiamo parlando della possibilità che ognuno di noi ha di volare, stiamo parlando dell'eventualità che ognuno di noi abbia avuto di volare nella vita, stiamo parlando della sincerità di volerlo confessare come non fosse qualcosa di cui dobbiamo vergognarci. Lo spunto ce lo dà Adriana Di Lello, che sul volo umano ha scritto un libro, Volo basso senza interferenze, Christian Marinotti Edizioni. Adriana Di Lello è qua in studio. Tu immaginavi di condividere con tanta gente il fatto di potere, volere, riuscire ad avere la forza di confessare il volo umano? Ero al corrente del fatto che il volo è in assoluto il sogno più frequente, no? Per cui da lì, con tutte le diramazioni del caso, comunque di base è un sogno e lo sognano in tantissimi. E poi c'è gente che ha delle esperienze molto assimilabili al discorso del volo. Noi siamo abituati ormai, ma chi mi ascolta da anni è abituato a considerare sempre meno importante la sottile distinzione tra ciò che è reale e ciò che noi percepiamo comunque in qualche maniera. Secondo me, ma questa è una mia opinione suscettibile di ogni critica e di ogni contraddizione, sognare di volare equivale realmente a volare. Capito che c'era un distacco dal mio corpo, ho iniziato a studiare la cosa e grazie all'aiuto di un mio amico brasiliano ho iniziato ad applicare delle tecniche. Solitamente io esco dal corpo la mattina appena mi sveglio, per essere sicura di essere sveglia mi alzo, bevo un bicchiere d'acqua e mi rimetto a letto. Per rilassarmi profondamente ho bisogno di raggiungere una certa temperatura, quindi mi copro abbastanza, mi rilasso con l'uso dei colori, in pratica pensando alla scala dei colori dell'arcobaleno, partendo dal rosso e arrivando al blu in questo caso, perché poi è col blu che io riesco ad uscire dal corpo. Raggiungo uno stato di rilassamento totale, io non riesco più a percepire il mio corpo, è completamente squagliato con il mio materasso, e decido da quale parte uscire. Riesco ad uscire dai piedi, riesco ad uscire dalle punte delle dita, riesco ad uscire dallo stomaco, dalla bocca, dalla gola e dalla fronte. Alberto mi scrive: a me capita anche da sveglio, mentre cammino tra la gente per strada, immagino spesso di volare a pochi centimetri da terra, passando tra le persone come un fantasma, poi all'improvviso impennare e cominciare a fare Superman. Antonia: dopo aver frugato dappertutto mi alzo di nuovo in volo ed esco all'apertura del soffitto, portandomi dietro tutta la luce e l'aria azzurra. Cala di nuovo il buio e mi sveglio. La signora invece che sta raccontando la sua esperienza di volo è una che ha messo a punto una tecnica molto ben precisa di volo. Lei, sentite, non è un inconsapevole abbandonarsi a un sogno lucido, ma è un ricercare attraverso tecniche che ha preso da un suo amico brasiliano, e non entro in particolari più personali, la possibilità di uscire da vari pertugi del suo corpo. E in questo veramente siamo molto curiosi. Una delle mie prime esperienze è stata quella di girare e volare nella mia camera da letto. Per poter uscire ho necessità di essere sola nel letto, non ci deve essere nessuno in casa, ci devono essere delle condizioni particolari. Quando ho iniziato ho scelto di visitare e di fare delle esperienze all'interno della mia camera da letto. La prima curiosità era di vedermi sdraiata nel letto, così sono uscita, mi sono messa sul soffitto e mi sono guardata, ho visto il mio corpo sdraiato nel letto, profondamente rilassato. Adriana Di Lello, invece, la volatrice di Volo basso senza interferenze non vede se stessa volare, è un'esperienza avvolgente, insoggettiva, lei vede il mondo dall'alto. Mi è piaciuto a un certo punto, tu racconti che per orientarti nelle città segui la ferrovia, come facevano i vecchi piloti d'aereo quando viaggiavano senza navigatore, senza mappe, e seguivano la ferrovia e andavano tranquillamente, non so, dal piccolo aeroportino di Perugia fino all'aeroporto di Roma Urbe, mi ricordo, si seguiva la ferrovia. Tu anche seguivi la ferrovia per volare? Sì, volare è per me, per la protagonista, ma diciamo per me. Tu devi fare questa distinzione perché ancora non ti sei perfettamente affrancata del fatto che non c'è nulla di male nel confessare che si vola. Prego. Volare per me è semplicemente un'altra prospettiva. Io non volo per fare prima, volo semplicemente perché posso farlo. E quindi esattamente come camminare fuori di casa con la cartina per capire la direzione giusta, anche per volare ho bisogno di indirizzarmi nel senso giusto. E allora lei, per far più semplicemente, segue le rotaie del tram. A Milano ci sono i tram, lavora verso Corsico e semplicemente si incunea dove ci sono le rotaie e va avanti fino a questa mattina con la neve volerebbe male, per fortuna stai qua a Roma. Silvia, buongiorno. Pronto, buongiorno. Tu voli per reagire ai dispiaceri d'amore, se non ho sbagliato male? Se non ho letto male? No. Ah, va bene. No, allora, io ho esperienze di volo di quando ero bambina, uh-huh. Esperienze di volo spontanee, non indotte come quelle raccontate dagli ultimi interventi. Ma le hai mai confessate prima di questa mattina? Sì, al mio compagno, sì, e poi la cosa è stata al mio compagno perché, parlando dei figli, il mio compagno non capiva l'aspetto fantastico, l'aspetto immaginativo dei nostri bambini. E allora a un certo punto gli ho fatto questa domanda. Dice, ma chi avranno ripreso? T'avrà chiesto. No, ma ho detto, ma tu hai mai volato? Perché è stata questa la domanda che gli ho posto, perché non trovavamo il punto d'incontro. E lui mi ha confessato. Cosa? Scusa? No? Allora io in quel contesto gli ho raccontato appunto la mia esperienza di volo. Ma lei sopporta di dividere la vita con un uomo che non ha mai volato? Sì, perché è bellissimo, il contrasto è molto bello. Cioè lui rimane a terra e lei vola. Beh, anche questo in fondo dà delle prospettive facilmente immaginabili alla varietà del rapporto, quindi la invidio. Alessandra, buongiorno. Buongiorno. Lei invece non riesce a volare? No, io ho qualche fugace ricordo di sogno che volavo, più che altro ho tante invidie per chi vola e non capisco perché ci si debba vergognare a confessarlo. Lei vorrebbe volare? Sì, assolutamente sì, erano bellissimi quei sogni, ma adesso proprio non capitano più, quindi trovo così strano vergognarsi di raccontare un'esperienza che è anche liberatoria. Si sente zavorrata. La protagonista sì. Del libro di Adriana Di Lello ogni tanto deve mettersi zavorra. Adriana, perché si zavorra? Perché se no volerebbe troppo e comunque lei è una creatura di questa terra e quindi deve necessariamente relazionarsi col prossimo. Avanti con la storia della Nostra Signora. Un'altra volta ho avuto la curiosità di vedere che cos'ero, quindi mi sono messa davanti allo specchio per vedere che cos'ero ed ero un piccolo puntino, un po' più grande di un granello di polvere, un puntino bianco, una cosa così, mi sono proprio avvicinata allo specchio fin tanto che non mi sono vista. Era come se io muovessi una telecamera e io non ero niente, ero solo un puntino. E volevo anche vedere quanto ero grande, se veramente questo puntino poi fosse ingombrante, no? Avevo una mensolina in camera da letto che aveva un taglio a forma di cuore e io sono passata attraverso quel buco. Poi sono entrata nel lampadario e mi sono fatta anche il giro del lampadario e un'altra volta ho volato sul soffitto, sopra l'armadio, dietro il comodino, quindi riuscivo a passare in posti minuscoli. Adriana, questa signora vola come un calabrone prigioniero dentro una stanza, come una farfalla che sta per bruciarsi contro una lampada. È un volo che invece è totalmente diverso da quello della protagonista del tuo libro, che apre la finestra e in fondo spazia libera. Sì, lei non vola assolutamente in casa, vola necessariamente fuori da ambienti chiusi e c'è bisogno comunque di aria, di spazio senza fine, di vento, di condizioni di movimento che in qualche modo all'interno delle quali lei si amalgama, no? Fino a raggiungere una perfetta simbiosi. Tu voli in aereo? Sì. Non hai paura? Qualche volta. E la protagonista di volo basso senza interferenze però un giorno prende l'aereo con grande angoscia. Sì, perché ovviamente non è lei a dirigere, l'aereo è un mezzo, per cui non si fida ciecamente, l'aereo è una macchina, non è perfetta come la macchina umana. Cristina, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Anche tu sei una volatrice? Saltuaria, nel senso che io pratico una tecnica non brasiliana, ma comunque di training autogeno, che mi porta a visualizzare i colori dal rosso al blu, rosso, arancione, giallo, verde, blu e viola. Ecco, qual è il nesso? Anche la signora volatrice sarda, ecco, dice la stessa cosa, con, esatto, i colori si vola. Con i colori, diciamo, si arriva a uno stato di rilassamento, anche di dilatazione del sistema venoso, di cambio della pressione, insomma succedono delle cose inspiegabili. Poi con la respirazione anche si immagina, io con il training immagino di avere una luce poi che promana dal mio plesso solare. Cioè, sì, ma a parte queste cose, voli o no? Sì, sono decollata senza rendermi conto, nel senso che non percepisco il decollo, percepisco a un certo punto di essere in uno stato di sospensione e mi sono trovata in un quadro di Magritte. Allora, te l'ho voluto raccontare perché tu hai parlato di Chagall e in questo momento a Milano c'è una mostra molto bella su Magritte, e quindi ho avuto l'impressione di entrare in uno di questi paesaggi notturni. Quindi tu diciamo, volavi sopra il paesaggio dipinto da Magritte e eri entrato all'interno del quadro. Volavo dentro. Quindi questo dimostra che in fondo anche la pittura è un'opera d'arte, altro non è che una porta aperta verso una dimensione parallela. Varcarla però non è sempre facilissimo. 800240024, ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni sul traffico, anche sul traffico aereo di chi vola di notte. E poi penso al mio rientro, perché il rientro è una cosa delicata, va fatto delicatamente perché altrimenti può essere anche doloroso, quindi mi concentro molto sul mio rientro e sto benissimo. E per riprendermi dal rientro ci passa anche un'ora e un quarto, cioè io non riesco a muovermi dal letto per un'ora e un quarto, non riesco a sentire il mio fisico prima di questo tempo e poi sto benissimo per tutto il giorno, una sensazione fantastica di benessere incredibile. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Lei sognava di volare prima del matrimonio. Sì, è vero, ora non mi capita più di volare e ascoltando te mi sono affiorati questi ricordi che facevo proprio prima di sposare, per cui sono ricordi di un ventennio fa circa. Ma perché considera il matrimonio una zavorra che le impedisce di volare? No, non ho detto questo. Anzi, il matrimonio spinge ad fantasticare, far volare forse anche i figli, perché vuoi trasmettere le sensazioni belle che hai avuto anche da prima. Però, diciamo così, ascoltando te, mi è riaffiorato la mia tecnica di volo che facevo appunto quando ero ragazzo. Ecco, tu avevi bisogno di una rampa di decollo, non riuscivi a volare, è un po' come Adriana Di Lello che può volare soltanto se salta non da balzare. Ecco, io invece ho bisogno di un piccolo pendio, di una discesa, di un qualche cosa che mi permettesse di raggiungere una velocità un attimino superiore, e una volta che mi staccavo da terra volteggiavo, volavo. Però nei miei sogni non c'è stato mai un rientro, mi svegliavo o mi addormentavo così volando un po' qua, un po' là. Diciamo che l'atterraggio era implicito nel sogno, non c'è memoria dell'atterraggio. Sì, è vero. Gino, buongiorno, invece da piccolo aveva delle tecniche di concentrazione per volare lei. Esatto, beh, diciamo che è un'esperienza abbastanza, faccio una premessa, io ho avuto queste esperienze, fra virgolette, di volo già dai 7 anni, 8 anni in poi, e in modo così spontaneo applicavo delle tecniche che era sulla respirazione, comprimivo l'addome in un certo modo e così via, e la cosa particolare è anche questo, che non accadeva casualmente, io decidevo di addormentarmi e di volare e lo facevo immancabilmente. Questo l'ho fatto per moltissimo tempo e con grande anche soddisfazione, dovrei dire. Ma lei si appuntava anche ai voli notturni, cosa aveva visto, come aveva fatto? Sicuramente, era molto molto molto realistico. Molto realistico, e volavo in posti conosciuti e non conosciuti. Questa era la cosa interessante. E andava in posti ricorrenti anche? Molti, molti coinvolgimenti. No, diciamo che decidevo di spostarmi verso un punto che vedeva all'orizzonte e lo facevo. Un un'altra volta invece ero a casa di una mia amica che ugualmente fa questo tipo di esperienze. Ho raggiunto grazie a lei uno stato di rilassamento molto profondo. Volevo provare ad entrare nell'acquario, un'esperienza che volevo fare, una mia curiosità per vedere se il mio corpo astrale poteva stare anche dentro l'acqua. Sono finita dentro l'acquario in mezzo ai pesci, non mi sono spaventata, è stato bellissimo e il rientro molto sereno. Moltissimi mi prendono per matta perché dicono ma sono tutte storie, tutte scemenze, sei una strega, si mettono a ridere, mentre invece altri dicono sì, è capitato anche a me di vedermi sdraiato nel letto oppure di precipitare e provare dolore. Penso che sia una capacità che hanno tutti, i bambini in particolar modo, perché tutti poi dicono ah, a me da piccolo succedevano queste cose, capita a tutti. Io ho raccontato una volta questo microfono che forse l'unico psichiatra a cui do fiducia, l'ho incontrato per caso una mattina all'aeroporto durante uno sciopero aereo, ci ho fatto amicizia, l'ho chiamato più volte. Quindi questa mattina ho chiamato lui a parlare un po' dal suo punto di vista di questa storia del volo. Giuseppe Neri, buongiorno. Ciao Gianluca. Ecco, non fare troppo lo psichiatra, a me non interessano le letture del profondo, quello che ha detto Freud proprio non mi riguarda in questo momento, ma dimmi una tua impressione rispetto a quello che hai sentito fino adesso. Ma la mia impressione è che siamo di fronte a una serie di situazioni che hanno radici profonde, la storia di ciascuno di noi, solo che al giorno d'oggi trovano spazio soltanto se sono collocate in un certo ambito. Cioè, secondo me, non è un caso. Beh, che infatti la signora... ho qui una scrittrice che l'ha trasformato in un romanzo. Parlo delle persone, parlo per esempio della signora Sarda. A me è capitato di avere anche una esperienza di una persona che veniva da Pantelleria e le isole hanno una capacità di creare miti e di viverli proprio per la loro cultura, molto diversa. Sulla terra volavamo leggeri, certo. E allora io dico che bisogna prima di tutto mettersi in testa che il sonno e il sogno sono parti attive della nostra vita quotidiana, non sono altro da noi. E casomai noi siamo capaci di utilizzare quella parte della nostra vita per mettere in campo delle situazioni, delle dinamiche, una serie di approcci al reale che a volte è pesante e zavorrato, che nella vita tra virgolette consapevole o se preferisci diurna sarebbe molto più difficile per noi affrontare. Sei d'accordo Giuseppe che oggi è molto più facile parlare di altri fantasmi e di altre esperienze dell'inconscio legate alla relazione, legate alla sfera sessuale, piuttosto che semplicemente ammettere di volare? Io la prima volta questa mattina ho avuto tante persone che hanno ammesso candidamente questa sorta di segreto della loro vita, che loro in effetti hanno tecniche di volo, ognuno poi vedi, sa chi con la respirazione, chi con i colori, chi batte le mani, chi cerca la rampa di lancio, quindi ognuno ha un suo manuale di istruzione di volo individuale, ma non se ne parla mai. Beh, c'è una reticenza dovuta a fenomeni di tipo culturale, in altri contesti sarebbe stato molto meno censurabile e molto più facilmente ammesso, però sono molto d'accordo con quello che dicevi prima, se riusciamo a entrare nell'ottica di un sottile, molto sfumato confine tra ciò che siamo abituati a etichettare come reale e ciò che siamo abituati a etichettare come irreale o frutto della fantasia, già abbiamo fatto un passo avanti importante. Simona, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io volevo raccontare di questa esperienza carina perché da quando sono piccola, che sporadicamente adesso purtroppo mi capita anche più di rado, ma in poi oggi veramente a Roma è una brutta giornata per volare. Ah, qui non ne parliamo, sono appena uscita da una coda in tangenziale est a Milano, quindi assolutamente tutto grigio, molto bello. Ecco, lei come fa a volare invece? Io, la cosa simpatica è che da quando sono piccola, ogni volta che mi capita di volare in sogno, praticamente nuoto a rana. Ah beh, cioè, volo nuotando a rana. Anche quella è una tecnica. Non ho mai capito il perché di questa cosa, forse ho fatto troppo nuoto da piccola. E proprio nell'esperienza del volo, a parte che mi ricordo i voli meravigliosi perché... Beh, sul dorso quando... sarebbe meno spettacolare secondo me. Sì, sul dorso non vedrai praticamente nulla del paesaggio sottostante, invece nuotando a rana proprio mi consente di vedere tutto quello che sta sotto. Poi devo dire che ci sono alcune occasioni in cui il volo è più piacevole perché mi godo proprio il panorama di sotto, altre volte invece in cui il volo è una... diciamo, non staccarsi da terra per fuggire da qualcosa. Vabbè, da qualcuno. Le auguro di trovare una piazzola in tangenziale e di magari lasciare lì l'automobile e cercare di arrivare a destinazione volando, se ci riesce, a rana, in stile libero, come vuole. Allora, Ivan invece ha un consiglio da chiedere a Adriana Di Lello, che abbiamo definito istruttrice di volo, perché il suo libro termina, non voglio anticiparvelo, non voglio farvi assolutamente l'anticipazione l'emozione del finale, ma lei alla fine è portatrice di un'esperienza, e di una maniera, di una visione della vita, e comincia a trasmetterla a qualcuno. Ivan, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Nicoletti. Quali sono i suoi problemi? Che magari Adriana le risponde. Sì, appunto, io ho un problema, nel senso che posso governare le virate oppure scendere di quota, ma non sono in grado di risalire. Quindi la dottoressa Di Lello, sicuramente più esperta di me, poteva darmi qualche consiglio. Quindi lei, se perde quota, non risale più? Assolutamente, ecco perché ho anch'io il problema di dovermi lanciare da finestre, parapetti, balconi, eccetera. E dopo posso o girare oppure scendere tranquillamente al suolo. Girare è facile, basta girare la testa e abbassare un braccio. È appena più complicato, no, non serve muovere le braccia. Poi va bene. Io ho esperienze di caduta libera da adolescente, quindi so cosa significhi muoversi in caduta libera, bastava muovere un braccio e si girava a destra o a sinistra. Adriana, comunque rispondiamo a questo signore, diamo l'ultima istruzione e poi chiudiamo. Come si fa a risalire di quota? Ma la condizione sine qua non è l'assenza di segnali di disturbo, l'assenza totale di interferenze. Il cervello deve essere vuoto, pagina bianca. In quel caso si riesce a risalire. Se perdendo quota si acquistano anche delle interferenze, non si risale più. Quindi questo signore Ivan probabilmente ha dei pensieri che gli impediscono di riprendere quota. Probabilmente. Ecco, e come ci si libera dalle interferenze? C'è una tecnica? Concentrazione assoluta. Quindi ha una tecnica anche la protagonista di questo libro, non è che vola spontaneamente. Sì, lei si concentra poco prima di volare, passa 5 minuti sul davanzale, sul cornicione, sul tetto, cercando di eliminare qualsiasi tipo di pensiero, e poi a quel punto spicca il volo. Va bene, grazie Giuseppe Neri, ti saluto, grazie agli ascoltatori, grazie Adriana Di Lello, Volo basso senza interferenze, manuale di volo umano, Cristian Marinotti Edizioni. Spero questa mattina che... Ma vedo dei signori con delle camicie bianche, con un camice bianco in mano fuori dalla porta dello studio, non so se cercheranno me, spero di no. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog 2.0.